C'è una notizia che come uno spettro per l'Europa si aggira da sempre sui nostri giornali. Appare periodicamente su supplementi medici e pagine scientifiche, deborda talvolta in cronaca e nei servizi, giunge a conquistarsi, specie nei settimanali illustrati, lo spazio di una vera e propria inchiesta. Poi rapidamente si sgonfia e sparisce, salvo riapparire in forma variamente mutata dagli a qualche mese. È la notizia della scoperta e del più o meno imminente lancio sui mercati del farmaco per dimagrire. Di solito, per gonfiare la dimensione dell'articolo quello che è un esito flash di agenzia relativo a qualche nuova sperimentazione farmacologica, si ricorre, oltre che all'adeguato contorno di banalità statistiche e al parere immancabilmente negativo dell'esperto di turno, a una serie di brevi interviste a noti esponenti sovrappeso del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. E la si correda con un certo numero di foto, tra cui, non so se l'avete notato, non ne manca mai una di Oliver Hardy, che meglio di chiunque altro nella iconografia contemporanea esprime la maschera perversamente tragica del ciccione infelice. La regolarità con cui questa importante notizia appare e scompare senza lasciare traccia è tale che non mi permetterei neanche di parlarvene se non fosse che nella sua ultima incarnazione non saprei dirvi esattamente perché ha fatto scattare nella mia mente il vago sospetto che chissà ci possa essere qualcosa di vero. Quando non si legge soltanto di un farmaco più o meno indefinito, della pillola per dimagrire, ma si apprende che al Congresso Nazionale dell'Unione contro l'Obesità è stata annunciata la scoperta di una famiglia di sostanze, i beta 3 stimolanti, che provoca un aumento della dispersione delle calorie accumulate senza danneggiare il cuore e i cui risultati preliminari sono molto interessanti, per citare il professor Massimo Cigolini della Clinica Medica dell'Università di Verona. E quando si scopre, come se non bastasse, che è imminente la sperimentazione sull'uomo della leptina, una sostanza recentemente individuata nei topi il cui livello nell'organismo sembra inversamente proporzionale all'obesità del soggetto, topo o uomo che sia, e che sembra altamente raccomandata dai nutrizionisti dell'Università di Roma Tor Vergata, ammetterete anche voi che qualche inquietudine è giustificata. Ho detto inquietudine, ma potrei usare anche termini più forti, perché vedete, detto in confidenza così tra di noi, io non sono proprio disinteressato al problema dell'obesità. Non dico che la mia foto potrebbe sostituire quella del povero Olio per illustrare i servizi giornalistici di qui sopra, ma insomma qualche chiletto di troppo me lo ritrovo anch'io, e non sono né in età né in condizione di salute tale da permettere di farci allegramente spallucce. Il problema della dieta, per essere franchi, mi tormenta da almeno 2 decenni. Ho cominciato la cura dimagrante tante di quelle volte da poter essere considerato un vero esperto in materia, almeno quanto Mark Twain si considerava esperto nella difficile arte di smettere di fumare. E vi sembrerà contraddittorio, ma proprio in questa mia qualità di esperto del ramo non riesco proprio a considerare la notizia della scoperta del farmaco squagliaciccia una di quelle che gli interessati dovrebbero festeggiare danzando in circolo e spargendo fiori, cerimonia che oltretutto, trattandosi di ciccioni, ricorderebbe un po' troppo da vicino la danza degli ippopotami in fantasia di Walt Disney. Sì, sarebbe comodo, certo. Sarebbe un sollievo per tutti noi schiavi della necessità di ridurre le calorie. Ma non bisogna pensare soltanto a se stessi, ai propri personali interessi, e immagino che siate d'accordo anche voi sul fatto che la possibilità di eliminare i chili superflui mediante una semplice assunzione di pastiglie o complesse rappresenterebbe per tutta la società un grave pericolo sul piano morale. Non sto scherzando, eh? Basta guardarsi un attimo in giro per capire che in questa nostra cultura permissiva, in questa società dello spettacolo, dell'inciuccio, dell'esibizione, in cui la mancanza di principi è esibita con orgoglio, la capacità di depredare la vedova e l'orfano è considerata il presupposto indispensabile all'arte di governare, quando mancare agli impegni è visto come una manifestazione sopraffina di intelligenza e prendere a calci in culo i sottomessi è un privilegio a cui nessuno sembra disposto a rinunciare, e in questo ambiente, in questo clima, mettersi a dieta rappresenta l'unico vero solido impegno morale. È solo al fine di recuperare l'originaria snellezza che siamo disposti a impegnare forza di volontà e spirito di sacrificio, le doti che resero grandi l'impero dei padri romani e che rappresentano il nervo puritano della cultura anglosassone. Nella crisi congiunta della morale evangelica e dell'imperativo categorico kantiano, quella della dieta resta l'unica categoria in cui sia possibile ritrovare almeno una traccia di impegno etico che la società di oggi possa far suo. E se questo genere di argomentazioni vi lascia indifferenti e preferite restare nel campo della medicina, pensate all'importanza dell'obesità sul piano diagnostico e teoretico, alla sua capacità di rispondere ai tanti perché che allignano su quel piano, e non sono mica pochi i disturbi, le condizioni patologiche di disagio, le malattie vere o supposte che la medicina di ogni tendenza tradizionale, omeopatica, olistica, ayurvedica o chissà che cosa riconduce più o meno espressamente allo stato di sovrappeso. E non sarò certo io a mettere in discussione questa relazione causale, ma il fatto è che per essere validamente valido sul piano diagnostico, quel sovrappeso non va considerato soltanto una mera condizione fisica, eliminabile tanto per dire con un aumento dei livelli di leptina nei tessuti. Deve essere visto come una vera e propria condizione esistenziale e morale, riconducibile a precise scelte pregresse di chi ne ha affetto. E non è un danno, non è un danno, perché se vedo che noi ciccioni siamo più soggetti di altri a un certo numero di stati patologici, e anche vedo che siamo gli unici che possiamo soddisfacentemente risolvere l'angoscioso dilemma del perché proprio a me, che turba tante brave persone, con la consapevolezza che a noi tocca proprio perché ce lo siamo voluto. E che quindi, e questo è il passaggio davvero interessante, se ci siamo voluti la malattia possiamo volerci anche la salute, impegnandoci nella lotta per dimagrire. Una condizione in ultima analisi privilegiata, dalla quale l'introduzione di un farmaco per diminuire di peso senza fatica finirebbe inesorabilmente per scalzarci. Insomma, io mi auguro sinceramente che il professor Cigolini della Clinica Medica dell'Università di Verona abbia peccato per troppo generoso ottimismo. E visto che ormai siamo in Quaresima, e visto anche che negli ultimi tempi mi è capitato di travignare un po', io vi assicuro che da oggi mi metto a dieta davvero. Anzi, da oggi no, in fondo è domenica. Facciamo da domani.